Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Proprio al momento di partire è arrivato un colpo di tosse incredibile, del quale mi scuso. Però andiamo ad iniziare lo stesso questa Città Fujiko Live Club, trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi fa ascoltare musica registrata dal vivo di ogni epoca e di quasi ogni genere. E come ogni trasmissione, Città Fujiko Live Club inizia con una novità. Oggi una novità veramente succulenta, molto molto bella. Sono usciti quasi in contemporanea due album molto belli, sorprendenti oserei dire, diversi l'uno dall'altro, che vi proporrò in sequenza. Questo è il primo, la prossima settimana ci sarà il secondo, non svelo naturalmente quale sarà il secondo, ma svelo subito quale sarà il primo. È una band che si chiama Third Mind, band che non molti conoscono, credo, anche perché diciamo che è relativamente nuova, visto che è stata assemblata da Dave Alvin, che molti di voi ricorderanno fondatore, membro dei Blasters, passato attraverso innumerevoli esperienze, compreso quella solista. Nel 2019, insieme ad alcuni altri musicisti, tutti di lungo corso, diciamo così, ha messo su questa band che si chiama Third Mind, che vede alla voce una ragazza che si chiama Jessie Sykes, che oltre a cantare molto bene, suona anche la chitarra molto bene, perché questa band, lo ripeto, si chiama Third Mind, il terzo pensiero, la terza mente, che è una band che è molto improvvisa moltissimo, per cui una cantante che fosse solo cantante avrebbe molto tempo per riposare, diciamo così. Quindi suona la chitarra e queste improvvisazioni durano veramente tantissimo. Ci sono alcuni brani che durano 13 minuti, un altro che dura 15. E diciamo che appunto si può iscrivere questo Third Mind al movimento jam bands americano. Hanno fatto due album in studio e il terzo invece è registrato dal vivo, come doveroso che sia per appunto una jam band. È stato registrato in California in un paio di occasioni e in Texas in un'altra. Loro sono tutti californiani, questi musicisti, hanno tutti degli altri impegni, diciamo così, Dave Alvin compreso, e per cui si ritrovano ogni tanto, fanno questi pezzi quasi tutte covers, appunto con molte improvvisazioni e veramente molta psichedelia, diciamo così, psichedelia magari lisergica. E come dicevo, alcuni brani sono stati registrati in California, per la precisione al Troubadour di Los Angeles, in particolare quello su quale focalizzeremo l'attenzione in questa prima parte, il 2 febbraio del 2024. E andiamo subito ad ascoltarci questa band, tre chitarre, basso, batteria, tastiere, e poi si avvicendano, non è una formazione fissa a parte Dave Alvin, Jessie Sykes che è la cantante e il bassista, del quale però non ricordo ricordo il nome, mi scuso con lui. E come dicevo, sono tutte covers, o quasi, e andiamo subito con una cover su un classico degli Electric Flag del 1900, degli anni 60, per meglio dire, evitiamo precisioni inesatte, e si chiama Growing Is Easy e ce l'andiamo subito ad ascoltare. Loro si chiamano Third Mind. Doesn't have to be. Si chiamano Third Mind, vengono dalla California, il loro terzo album si chiama semplicemente Live Mind, forse prima non l'ho detto. E questo supergruppo, come dicevo, si riunisce saltuariamente, fanno pochi concerti, soprattutto nell'area californiana, con qualche escursione, soprattutto in Texas. E questo album, come vi dicevo, è un'autentica sorpresa, veramente molto bello, perché, contrariamente a quanto uno si può aspettare, visto che il leader della situazione è dei Balvin, e la band fa un sacco di improvvisazioni, un sacco di pezzi molto molto lunghi, ed è veramente un gran bell'album, registrato in diverse parti fra California e appunto Texas. In particolare il brano che ci siamo ascoltati, Groovin' Is Easy. Walk me out in the morning. Anche questo è una cover, un classico Morning Dew, ma dicevo che è stato registrato fra California e Texas, in particolare il brano che ci siamo ascoltati, una cover di un brano degli Electric Flag, si chiama Growing Is Easy, è stato registrato al Troubadour di Los Angeles il 2 febbraio del 2024. E il Troubadour di Los Angeles, questo storico locale situato al 9081 di Santa Monica Boulevard, sarà il protagonista della prima parte della trasmissione di oggi, 23 aprile 2025. E il Troubadour è stato aperto nel 1957 da un personaggio molto particolare che si chiamava Doug Weston, ma questo parleremo magari un'altra volta. Iniziò come folk club, poi nel corso degli anni si è aperto anche ad altri stili musicali, a volte anche aperture un po' troppo, devo dire il vero, ma di questo parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Sono solamente 500 persone che possono entrare al Troubadour, tutte in piedi, non ci sono sedili, un po' come all'Estragon, insomma, per dirla tutta. E quindi è facile che ci siano molte serate da parte dei vari musicisti, dei vari gruppi, soprattutto per quel che riguarda i britannici, coloro che arrivano dalle isole britanniche o dall'Europa. E a preparare la trasmissione mi sono reso conto che in realtà sono più le registrazioni di band e artisti britannici o delle isole britanniche, per meglio dire, più che americane, è una cosa veramente particolare. Per cui la prima parte della prima parte, scusate il gioco di parole, è dedicato a gruppi e artisti britannici, a cominciare da un artista che si chiama Stephen Demetriou Georgiou, ma tutti noi lo conosciamo come Cat Stevens, oppure come Yusuf Islam, dopo che nel dicembre del 77 si è convertito appunto all'Islam. Il suo primo album, Matthew and Sons, singolare, è del 1967, ha avuto un sacco di successo gli anni 60 e gli anni 70, ha venduto un sacco di album, ha fatto un sacco di bellissime canzoni, e poi dopo un periodo di isolamento per studiare appunto l'Islam è tornato alla musica pop nel 2006. Qui abbiamo uno dei suoi album più fortunati, si chiama Tea for the Tillerman, è il suo quarto album, è stato pubblicato originariamente nel novembre del 1970, ed era un long play, ma è stato ripubblicato in doppio CD nel novembre del 2008. Nel secondo dischetto ci sono diversi brani dal vivo, fra cui due che sono stati registrati al Troubadour il primo maggio del 1971, quindi quasi quasi record today. Ci andiamo ad ascoltare Cat Stevens, il brano si chiama Into White. I built my house from barley rice, green pepper walls and water ice, tables of paper wood, windows of light, and everything empty in into white. A simple garden with acres of sky, a brown-haired dog mouse if one drop by. Yellow Delaney would sleep well at night. With everything emptying into white, rehearses outside, a black spider dancing on top of his eye. Yellow Delaney would sleep well at night, with everything emptying into a high. Built my house from barley rice, green pepper walls and water ice. And everything emptying into a high. Cut one more time. Up on Cypress Avenue, well, I'm caught one more time. Up on Cypress Avenue, and I'm cocking a car seat, looking straight at you. And all the little girls are something. On their way back home from school. All the little girls are something. On their way back home. It's for one by one. Call the autumn town fool. Yeah, my tongue gets. Yeah, my inside shake just like a leaf on a tree. If I go walking by the river, we'll be right back. never call my lady. Rainbow ribbons in her hair. Y'all never call my lady. Ribbons in her hair. Six white horses in a carriage. Children returning from the fair. Here I am. Here I am. Here I am. Here I am. Right now, right now. I'm caught. One more time. Way up on the avenue. Yes, I'm caught. Again. Way up on, way up on, way up on the avenue. And we're extremely wasted. And we're trying to get it back to you. Because nobody. Standing there. And you were standing there. Yeah. All your revelation. All your revelation. And all your revelation. Wait for me to come. Wait for me to come. They said, "20." Baby! e con 500 persone solamente nel pubblico, di pubblico per meglio dire, si instaura questo rapporto quasi colloquiale fra l'artista e il pubblico stesso. Van Morrison, non credo, spero non abbia bisogno di presentazioni. It's Too Late to Stop Now uscì come doppio long play con degli estratti da tre concerti fatti nell'anno 1973. Nel giugno del 2006 poi è stato ripubblicato, per meglio dire si chiamava It's Too Late to Stop Now Volume 2, 3, 4 and DVD, perché appunto comprendeva tre CD con i tre concerti che erano stati, dalla quale erano stati estrapolati i brani originali, qui sono in versione integrale, e il primo show è stato registrato proprio al Troubadour di Los Angeles il 23 maggio del 1973, un super classico della musica di Van Morrison, quello che ci siamo ascoltati, si chiama Cypress Avenue. We are. Malgrado una partenza non propriamente perfetta, come sempre, una cover al giorno non leva il medico di torno, ma fa sicuramente bene. Soprattutto questo è un gran brano di John Lennon, ma questo lo conoscete, lo sapete tutti, nell'interpretazione di Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. Dave Stewart naturalmente è stato per anni prima un membro dei Tourists dal 77 all'80 e poi metà degli Eurythmics dal 1990 fino adesso, perché ogni tanto si riuniscono lui e Annie Lennox per qualche occasionale concerto. Lui fra parentesi si è un po' ritirato effettivamente dalla musica attiva, scrive colonne sonore per i film e per le serie televisive e pare che in questo campo sia veramente al top. Il brano che ci hanno ascoltati, lo ripeto, Instant Karma, è stato registrato al Troubadour di Los Angeles e fa parte di un 10 pollici. Sto parlando di vinile, infatti avete sentito che è partito con i giri sbagliati e niente, il 10 pollici è quella misura che sta a metà fra il singolo, che è un 7 pollici, e il long play, che è un 12 pollici. Sono due brani in studio e questa registrazione effettuata al Troubadour di Los Angeles, non si sa però quando sia stata. Passiamo alla parte americana del tutto, della prima parte, insieme a una band che è, secondo me, un tantinello sopravvalutata, ma sicuramente è una grande band. Si chiamano Wilco, vengono da Chicago e sono attivi dal 1994. Been There è uno dei loro album migliori, è stato pubblicato come doppio CD nell'ottobre del 1996, ma è stato ripubblicato in versione 5 CD e in uno splendido box set nel dicembre del 2017. Il CD numero 4 e una parte del numero 5 sono live, sono stati registrati al Troubadour, appunto a Los Angeles naturalmente, il 12 novembre del 1996. Il brano che ho scelto per voi si chiama Out of Sight, Out of Mind. Loro sono Wilco. The windows painted blue, with the light from a TV running parallel to you. If I had a boat, probably roll over. I'd leave it on the shore. I'd leave it for somebody. Surely there's somebody more than rock and roll. Vengono da Akron, Ohio, si chiamano Black Keys, un duo, ma sicuramente li conoscerete perché sono famosissimi. Però prima di avere un grande successo con un album che si chiama Brothers, per lunghi anni sono stati, diciamo, non molto conosciuti e soprattutto cercavano di essere alternativi a quello che era il mainstream americano. Poi dopo ci sono entrati a piedi pari, ma comunque se lo meritano perché sono veramente bravi. Prima di raggiungere il successo però, la casa discografica, la Nonesuch, cercava di farli conoscere soprattutto alle college radio, che era, diciamo, gli studenti erano, sono tuttora il tipo di pubblico a cui si rivolgevano, e per cui mandarono le case alle radio questo live EP, un promozionale con 4 brani, di cui 2 sono stati registrati al Troubadour il 13 settembre del 2006. Il brano in particolare che ci siamo ascoltati si chiama Girl Is On My Mind, loro erano Black Keys. Come detto all'inizio della trasmissione, il Troubadour di Los Angeles nacque principalmente come folk club per musica intimistica, musica acustica, e uno dei visitatori più assidui del Troubadour fu, anche se per breve periodo, vista la sua prematura morte nel giugno del 75 a 28 anni, fu, dicevo, Tim Buckley, grande personaggio, voce fantastica, come del resto anche il figlio Jeff, che è stato un po' rivalutato, diciamo, dopo la morte. In vita era stato molto, molto apprezzato dalla critica, un po' meno dal grosso pubblico, ma poi dopo la morte, come a volte accade, anzi un po' troppo spesso, furono pubblicati diversi album, dei quali parecchi dal vivo, ma tutti gli album dal vivo che trovate in giro, ripeto, Tim Buckley, sono tutti postumi, non sono usciti durante la sua vita, tipo questo che ci andiamo ad ascoltare, che molto significato, si chiama Live the Troubadour 1969, è stato registrato appunto il 3-4 settembre di quell'anno, e conclude questa prima parte della trasmissione dedicata al Troubadour di Los Angeles con questo magnifico brano che si chiama Drifting. When there's wine in your belly, love rhythms on your tongue, for you are a woman, and each man has been too young. But for me, you were gently under your cover, your sheet reeks of others. Oh, I came here to hold and be held for one. Thank you. I've been drifting. Thank you. and remember the good times. Warm days filled with sunshine and just a little bit of rain. Just a little bit of rain. The lonely blue sad time and just a little bit of rain, just a little bit of rain. Parte il pezzo seguente, ma quello che interessava a noi era questo che ci siamo ascoltati, la novità che vi propongo quest'oggi, come succede sempre, ha aperto la seconda parte di Città Fujiko Live Club, oggi 23 aprile del 2025, la novità che vi propongo da parte di una band che potrebbe essere chiamata anche supergruppo, band che si chiama Third Mind, che vede come elemento di punta Dave Alvin, ex Blasters, ex un sacco di cose, e anche altra stella della formazione, la vocalista, la cantante che suona anche la chitarra, come detto prima, si chiama Jessie Sykes. L'album, il loro terzo, il terzo della loro discografia, si chiama Live Mind, è stato registrato in diverse parti degli Stati Uniti, principalmente in California, anzi due volte in California e una in Texas. E il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato appunto in California, però la Music Hall di Ventura, una cittadina molto molto interessante, e si chiama Little Bit of Rain. È una cover, come del resto molte, quasi tutti i brani che compongono questo album, che ha il solo difetto di essere singolo, ed è un brano che è stato scritto da Fred Neil, che molti di voi ricorderanno per aver scritto Everybody's Talking, motivo il brano di punta della colonna sonora di Un uomo da marciapiede. Mm-hmm. Come sempre però nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Ricordi Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni, e ancora una volta manco a dirlo, tantissimi brani sono stati registrati in questa giornata e ancora una volta il criterio di scelta è un brano per ogni decade. E oggi Ricordi Today inizia con due pezzi da, non dico da 90, ma da 95, forse qualcosina di più. Il primo arriva con una registrazione del 1977, si chiamava Tom Petty, purtroppo ci ha lasciato nel 2017 e dopo aver avuto una carriera veramente splendida, a parte diciamo i primi tempi nel quale non ebbe un grande successo, però insieme agli Heartbreakers ha fatto parte integrante della storia della musica rock americana. Dopo la sua morte sono uscite diverse cose molto interessanti, contrariamente a quanto avviene di solito, e tipo questo An American Treasure, che è stato però accreditato al solo Tom Petty. Però i numerosi brani dal vivo che ci sono sono tutti suonati con gli Heartbreakers, tipo questo che ci andiamo ad ascoltare, anche perché è un brano dell'inizio della carriera di Tom Petty and the Heartbreakers. È stato registrato a Record Plant Studios di Sausalito, posto bellissimo in California, il 23 aprile del 1977. Il brano si chiama Listen to Her Heart. This is a new song called Listen to Her Heart. She don't need you. Pochi se lo ricordano, ma l'album d'esordio di Tom Petty fu pubblicato anche in Italia e la casa discografica mise un bel patacco, come si dice a Bologna, un'etichetta con scritto Punk Music, solamente perché lui nella copertina aveva un giubbotto di pelle nera, ma con il punk non c'entrava assolutamente niente, ma le case discografiche ogni tanto spesso prendono delle gran cantonate. E questo invece era Listen to Her Heart, ce l'ha presentato lui stesso pronunciandolo molto meglio di me, è stato registrato, come dicevo, a Record Plant Studios a Sausalito in California il 23 aprile del 1977. Tom Petty and the Heartbreakers. Vi avevo detto due pezzi da 90 e forse di più, arriva il secondo, si chiama Neil Young, è uscito proprio in questi ultimi giorni il suo nuovo album, si chiama Coastal, album live acustico in solitaria, naturalmente prossimamente in questa trasmissione. Qui invece lui è, Neil Young è assolutamente pazzo, alterna cose da solo, cose in quartetto e cose con band numerosissime, tipo questa. La band si chiama Blue Note Café ed è composta, oltre che dai soliti, diciamo, chitarra, basso, batterie e tastiere, anche da sei fiati. È una cosa veramente notevole. L'album è accreditato a Neil Young and Blue Café, Blue Note Café, si chiama appunto Blue Note Café. L'album è un doppio molto molto bello che è stato registrato in diverse occasioni e in diverse serate naturalmente. Qui siamo al 23 aprile del 1988, Neil Young e i suoi Blue Note Café sono in concerto all'Agora Ballroom di Cleveland, Ohio, e questo è il pezzo che hanno inserito in questo splendido doppio album, si chiama Twilight. Next song is brought to you by nobody. Cause I'll be holding you. when the twilight falls. Neil Young and the Blue Note Café, Il tutto registrato dal vivo, un doppio dischetto veramente molto intrigante, e il brano che ci siamo ascoltati si chiama Twilight, Agora Ballroom di Cleveland, 23 aprile 1988. Come vi dicevo, è uscito in questi ultimi giorni il nuovo album live solo acustico di Neil Young, si chiama Coastal, che è la colonna sonora di un film che vede appunto Neil Young in giro per gli Stati Uniti a suonare, e il film è stato diretto da Daryl Hannah, che è attualmente la signora Young, diciamo così, ma che è un personaggio di suo, molti di voi la ricorderanno come Sirena Manhattan o qualcosa del genere, è stata anche la compagna di Jackson Brown. Comunque, a proposito di film, apro una piccola parentesi per ricordare che in questi giorni esce Pink Floyd a Pompei, una pietra miliare nel campo del film musicale, debitamente restaurato, pare che sia fantastico, e uscirà anche in questo caso la colonna sonora, cioè il concerto che i Pink Floyd fecero a Pompei nel teatro vuoto, ma sicuramente dal vivo è veramente entusiasmante anche questo, prossimamente in questa trasmissione. Chiusa parentesi sul film, andiamo invece con gli anni 90, una band che è sempre stata molto considerata dalla critica, un po' meno dal pubblico, perché non è che abbia avuto un grande successo commerciale. Si chiamavano L.A.'s, anzi si chiamano ancora L.A.'s, anche se in realtà si sono sciolti e riformati diverse volte. Il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un quadruplo CD, un box set di quelli lunghi, che comprende, che si chiama Colin Hall, comprende anche due CD dal vivo. Il numero 4 comprende un concerto registrato al Marquis di Londra il 23 aprile 1991, questo è il loro brano più famoso, il loro brano classico, si chiama There She Goes, loro sono L.A.'s dal 1991. Yeah. Siamo ad Atlanta, Georgia, in particolare al Woodruff Arts Center della città georgiana, appunto, e giocano in casa i Collective Soul, che vengono proprio da lì. Collective Soul, che sono stati fondati da Ed e Dean, due fratelli Roland, che però narra la leggenda che in realtà Ed abbia scritto, come quasi tutte le canzoni del Collective Soul, abbia scritto questo brano in versione solista. Però una volta che fu presentato il brano alla casa discografica, la casa discografica disse: sì, va tutto bene, però a noi serve una band, serve un gruppo, devi fare un gruppo. E così assemblò questi Collective Soul, in primis insieme al fratello che suona la chitarra, lui è il cantante, e poi assoldando via via tutti gli altri. Il brano con cui si presentò la casa discografica era proprio quello che ci siamo ascoltati, Shine, che conclude questo concerto registrato il 23 aprile del 2005 ad Atlanta, appunto, insieme all'Atlanta Symphony Youth Orchestra. Avete sentito, abbastanza pomposo. E tra l'altro è una piccola anticipazione di quello che sarà mercoledì prossimo la prima parte della trasmissione, visto che la novità che vi proporrò vede una band insieme a un'orchestra di musica classica, per cui questo era Shine, Collective Soul, 23 aprile 2005. A concludere Ricordi Today di oggi, arriva una band da Stoccolma, un trio svedese che è attivo dal 1997, con tour ovunque in Europa, a parte l'Italia, credo. È una musica molto 70s, diciamo, che si ispirano alle grandi band tipo Ten Years After, tipo Groundhogs, non dico Cream, ma circa. E loro sono una band che si chiama Siena Root, proprio come la città toscana, perché per loro la musica che fanno ha gli stessi colori della città di Siena, che è un bel colore, a dire il vero. Loro sarebbero etichettati dalla nostra ben amata Presidente del Consiglio come hippie, infatti hanno capelli lunghissimi, caffettani, eccetera, e si interessano naturalmente di arte e musica, anche musica orientale. Infatti il brano che ci andiamo ad ascoltare è l'unico di questo album, che in realtà è stato registrato a Stoccolma in un'altra occasione, ma l'unico che è stato registrato il 23 aprile del 2010 al Telus, sempre a Stoccolma, in versione acustica e direi in versione indiana. Il titolo più o meno fa Bhairavi Thrumri, lo sono Siena Root, era il 2010. completamente diverso dal genere che fanno usualmente i Siena Root. Questo era Bhairavi Thumri, versione acustica e versione orientalizzata, oserei dire, registrata al Tellus di Stoccolma in Svezia, naturalmente, il 23 aprile 2010. A concludere Recorded Today di oggi, ecco, questi sono gli altri Siena Root, quelli normali, ma sono veramente molto molto in gamba, secondo me. Mi rimane il tempo per riproporvi la novità che quest'oggi ha aperto le due parti della trasmissione, come sempre del resto, e la cosa mi fa molto piacere. Prima però vi devo ricordare che vi siete ascoltati un paio di ore di musica registrata dal vivo, ufficiale, sempre ufficiale, denominata pomposamente Città Fujiko Live Club. Il tutto naturalmente da Radio Città Fujiko in Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, se no sul web, oppure anche tramite il DAB recentemente, che ha ampliato la nostra gamma d'azione, diciamo. La novità che vi ho proposto quest'oggi, molto bella secondo me, si chiama Live Mind ed è il terzo album, primo dal vivo, per una band che si chiama Third Mind. Tutti pezzi molto lunghi, uno dei più corti è quello che ci porterà fino alla conclusione, si chiama Dora Lee, loro sono Third Mind e vale la pena di dargli almeno una possibilità. Vi ringrazio per l'ascolto, naturalmente, ciao a tutti da Nevio. the dead now. The fish swam free, looking for their ocean moon. You once loved a man whose heart was big and open. He said he could see the beauty in us all. He said he could see